Capitolo 2. Lieto Natale. Nell'alba grigia del giorno di Natale, la prima a destarsi fu Joe. Niente calze appese al camino. E la prima impressione fu una delusione, come quella volta, molti anni prima, che non aveva visto la sua calzettina appesa fra le altre perché era caduta, tanto era piena di cose buone. Allora si ricordò la promessa della mamma, e infilata la mano sotto l'origliere, ne tirò fuori un libricino dalla copertina color cremisi. Joe lo conosceva, era la vecchia e famosa storia della più bella vita che mai fu vissuta, e Joe sapeva bene che era la vera guida per il pellegrino che deve compiere il lungo viaggio. Destò Meg col suo «Buon Natale!» e le disse di guardare cosa c'era sotto il suo guanciale. Venne fuori un libro con la copertina verde e con la stessa figura nel frontespizio e qualche parola scritta dalla mamma che faceva prezioso ai loro occhi quell'unico piccolo dono che portava loro il Natale. Si destarono anche Beth e Amy e, frugando sotto il cuscino, trovarono anch'essi il libretto, uno grigio-azzurro e l'altro turchino. Tutte e quattro si misero a sfogliare e a commentare qua e là, mentre il cielo ad oriente si andava tingendo di rosa. Malgrado le sue piccole vanità, Margherita, Meg, aveva un'anima dolce e pia e inconsciamente influiva sulle altre, specialmente su Joe, che le voleva un gran bene e seguiva i suoi consigli perché lei glieli dava con tanta gentilezza. «Ragazze», disse Meg, seria, mentre il suo sguardo andava dalla testa arruffata accanto a lei alle due cuffiette da notte più lontane. «La mamma vuole che questi libri li leggiamo, li amiamo, li teniamo di conto. Cominciamo subito. Una volta era un'abitudine regolare e non ce ne scordavamo mai, ma da quando è andato via il babbo e questa guerra ha messo tutto sottosopra, abbiamo trascurato molte cose. Voi farete come vi pare, ma per conto mio lo terrò qui sulla tavola il mio libro e ne leggerò un poco tutte le mattine appena sveglia. So che mi farà bene, mi sosterrà per tutta la giornata». E aperto il nuovo libro, cominciò a leggerlo. Joe con un braccio le cinse la vita e lesse con lei guancia a guancia, con un'espressione posata e tranquilla che raramente si vedeva sul suo volto irrequieto. «Com'è buona Meg! Vieni e mi facciamo come loro. Quando ci sono le parole difficili ti aiuto io. E quando non si capisce ci facciamo spiegare da loro», bisbigliava Beth, molto impressionata dai bei volumetti e dall'esempio delle sorelle più grandi. «Ho piacere che il mio sia turchino», disse Amy. La casa piombò nel silenzio, interrotto solo dal fruscio leggero delle pagine voltate. Lentamente il sole raggiungeva col suo augurio di Natale le quattro testine luminose. Dopo mezz'ora Meg e Joe corsero da basso per i doni di Natale. «La mamma dov'è?» «Lo sa il cielo, venuto povero a domandare l'elemosina. Mamma subito fuori vedere cosa bisognare. Come lei non c'è altra per dare via roba, mangiare e bere, vesti e fuoco», rispose Anna, che stava con la famiglia da quando era nata Meg, più come un'amica che come una serva. «È facile che torni presto. Preparate le torte e tenete pronta ogni cosa», disse Meg, guardando i doni che stavano in un paniere, nascosti sotto il sofà per tirarli fuori al momento opportuno. «La colonia di Amy dov'è?» aggiunse, non vedendo la boccetta. «L'ha portata via lei un momento fa per metterci un nastrino, che so io», rispose Joe, saltellando per la camera per togliere la rigidità alle pantofole nuove. «Belli, i miei fazzoletti, me li ha portati, lavati e stirati, Anna, e io ci ho fatto la cifra, tutta da me», disse Beth, guardando con orgoglio le lettere non troppo regolari che le erano costate tanta fatica. «Guarda, guarda, invece di MM ha fatto mamma, come buffo, eh?» esclamò Joe tenendone in mano uno. «Non va bene, forse? Ho creduto che fosse meglio così, con due M poteva essere la cifra di Meg, e questi li deve adoperare solo la mamma», disse Beth, un po' turbata. «Ma va benissimo, cara, è stata un'idea ottima e proprio ingegnosa, anzi, così non ci si può sbagliare. Vedrai che la mamma sarà contenta, lo so», disse Meg con un'occhiata severa a Joe e un sorriso a Beth. «Eccola, presto, nascondi il paniere», esclamò Joe, udendo sbattere l'uscio di casa e un passo nell'atrio. Invece arrivò in gran fretta Amy e rimase un po' confusa vedendo tutte le sorelle che l'aspettavano. «Dove sei stata? Cosa nascondi lì dietro?» le chiese Meg, sorpresa di vedere che quella pigrona di Amy era uscita di casa così presto. «Non ridere, Joe. Non volevo che nessuno lo sapesse fino al momento buono. Ho pensato semplicemente di cambiare la boccetta con una più grossa. Il denaro che avevo ce l'ho speso tutto. Se devo cominciare a non essere più egoista, devo cominciare subito». E Amy mostrò la boccetta più grossa, tanto seria ed umile nel suo piccolo sforzo di altruismo, che Meg subito l'abbracciò e Joe dichiarava che un'altra maschietta come lei non c'era. Intanto Beth correva alla finestra a prendere la più bella delle sue rose per adornare il maestoso flacone. Si leggeva e si parlava di essere buone, allora mi è venuta vergogna del mio regalo da nulla. E appena alzata ho fatto un salto qui dietro l'angolo per cambiare la bottiglia. Come sono contenta! Adesso fa la figura più bella. La porta di casa sbatté di nuovo e di nuovo il paniere scomparve sotto il sofà. D'un salto le quattro sorelle si misero a tavola. Buon Natale, mamma, e tanti altri appresso. Grazie per i libri. Ne abbiamo letto un po' e vogliamo leggerne un po' tutti i giorni, esclamarono a gara. Buon Natale, bimbe mie. Sono contenta che abbiate cominciato subito e spero che continuerete. Ma ho ancora una parola da dirvi prima di sederci. Qui, poco lontano, c'è una povera donna che ha avuto un bambino. Altri 6 ne ha già, tutti ammucchiati in un letto solo per stare un po' caldi. Non hanno fuoco, poveretti, e non hanno da mangiare. Il più grande è venuto da me a dirmi che hanno fame e freddo. Bambine mie, volete dare la vostra colazione come regalo di Natale? Avevano più appetito del solito perché aspettavano da un'ora. Per un momento nessuna parlò. Ma fu solo un momento e Jo, impetuosa, esclamò: «Son contenta che tu sei arrivata prima che cominciassimo». «Ci vengo io», chiese Beth con premura, «ad aiutare a portargli la roba a quei poveretti». «La porto io, la crema e i crostini col burro», aggiunse Amy, rinunziando eroicamente alle due cose che le piacevano di più. Meg già stava coprendo le fette di torta e riunendo il pane in un vassoio largo. «Me l'aspettavo», disse la signora March con un sorriso di soddisfazione. «Vi ci condurrò tutte e quattro per aiutarmi e quando torniamo faremo colazione con pane e burro. Ci rifaremo poi a pranzo». In un momento furono pronte e si mossero. Per fortuna non era tardi e passando per strade non troppo frequentate, ben pochi le videro e nessuno rise allo spettacolo un po' buffo della loro spedizione. Trovarono una povera stanza nuda, miserabile, coi vetri rotti, senza fuoco, le lenzuola al lacere, la madre malata, il piccino che strillava e 6 più grandicelli raccolti tutti sotto un'unica vecchia imbottita per farsi caldo. E come spalancarono gli occhi e che sorriso su quelle povere labbra paonazze quando videro entrare le fanciulle. «Ach, mein Gott, sono venuti gli angeli!» esclamò la donna piangendo di gioia. «Belli, eh? Gli angeli in mezzi guanti e cappuccio», disse Jo, e tutti risero. E parve davvero, in pochi minuti, che tanti spiriti buoni si fossero messi al lavoro nella misera stamberga. Anna, che aveva portato la legna, accese il fuoco e chiuse le aperture dei vetri rotti con vecchi cappelli e con i suoi scialle. La signora March serviva alla puerpera il tè e la minestra di orzo, e poi la confortava promettendo altri aiuti. Intanto vestiva il neonato con la stessa tenerezza che avrebbe avuto per un bimbo suo. Le ragazze apparecchiavano tavola, mettendo a sedere gli altri intorno al fuoco e li imbeccavano come una nidiata di uccellini, ridendo, cicalando e cercando di capire quel loro linguaggio buffo pieno di parole tedesche. «Das ist gut, die Engelkinder!» esclamavano i poveri piccini fra un boccone e l'altro, scaldandosi le mani alla bella fiammata. Le quattro sorelle non si erano mai sentite chiamare angioletti e quel nome faceva loro piacere, specialmente a Jo, che sempre da quando era nata si era dimostrata tutt'altro che sentimentale. La colazione fu lietissima, sebbene le quattro piccole donne non mangiassero nulla, ma avevano portato un po' di gioia e di benessere a quei poveretti e non credo che in tutta la città ci fossero quattro persone più allegre delle quattro ragazze affamate che avevano rinunziato a un'ottima colazione e per la mattina di Natale si accontentavano di pane e latte. «Questo si chiama amare il prossimo più di se stessi e mi dà piacere», disse poi Meg a casa, mentre disponevano sulla tavola i doni per la mamma che era salita di sopra a mettere insieme le vesti da portare ai piccoli Hummel. I regali non erano gran cosa, ma dentro i modesti involtini c'era tanto amore. E il vaso di rose rosse e crisantemi e campanule che torreggiava in mezzo alla tavola le dava proprio un aspetto elegante. «Ecco che viene! Musica, Beth! Apri la porta, Amy! 3 viva per la mamma!» gridò Jo saltando di gioia mentre Meg andava incontro alla mamma per condurla al posto d'onore. Beth suonava la sua marcia più allegra, Amy spalancava la porta e Meg offriva il braccio con molta dignità. La signora March, sorpresa e commossa insieme, sorrideva con gli occhi lucidi nell'esaminare i doni e leggendo i bigliettini che li accompagnavano. Le pantofole le furono calzate subito, le fu messo in tasca un fazzoletto nuovo ben profumato con la colonia di Amy e i bei guanti le andavano a pennello. E poi risate e baci e spiegazioni in quella maniera semplice e affettuosa che rende così care quelle festicciuole in famiglia quando si svolgono e dopo ne fa così dolce il ricordo per tanto tempo. Alfine si misero tutte al lavoro. Le visite benefiche e la cerimonia del mattino prese tanto tempo che il resto della giornata fu tutto occupato nei preparativi per la festa della sera. Troppo giovani ancora per andare al teatro spesso e non tanto ricche da potersi permettere grandi spese per la messa in scena, le quattro ragazze aguzzavano l'ingegno. La necessità è madre dell'invenzione. Ed esse riuscivano a fare tutto ciò che occorreva. Alcuni prodotti delle loro mani rivelavano molta ingegnosità. Chitarre di cartone, lampade antiche fatte con le vecchie scatole del burro ricoperte di carta d'argento, vesti magnifiche di vecchia cotonina luccicanti di lustrini ritagliati dalle scatole dei sottaceti, una corazza ricoperta anch'essa con pezzi più grandi dello stesso prezioso materiale ricavati da coperchi di scatole di conserve. I mobili a esser messi sossopra c'erano abituati in quello stanzone che era teatro di tanti trastulli innocenti. I signori non erano ammessi. E così Joe aveva da recitare parti maschili finché voleva. Pavoneggiandosi entro due stivaloni di cuoio greggio donati da un'amica, la quale conosceva una signora che a sua volta conosceva un attore. Quegli stivali, con un vecchio fioretto da scherma e un giustacuore a trafori guarniti di velluto, già usato da un pittore per un quadro in costume, formavano il gran tesoro di Joe e venivano fuori in tutte le occasioni. La compagnia, poco numerosa, rendeva necessario che le due attrici più grandi facessero più di una parte. Ed esse ne imparavano bravamente tre o quattro diverse, cambiavano costume con rapidità meravigliosa. Tutto questo senza perder d'occhio la scena e le funzioni direttoriali. Ottimo esercizio di memoria e divertimento innocente che riempiva molte ore che altrimenti sarebbero state oziose, tediose o passate in compagnie meno buone. La sera di Natale una dozzina di piccole amiche sedevano sul letto che rappresentava la prima fila di palchi, quella dove si va in abito da sera, in grande aspettativa, assai lusinghiera per le artiste, davanti al sipario di percale azzurro e giallo. Dietro il sipario, frusci, scalpicciare di piedi, fumo di lampade e di tanto in tanto una risatina repressa di Amy che l'attesa rendeva nervosa. Ma squillò il campanello, il sipario si schiuse e la tragedia musicale incominciò. La tenebrosa foresta, di cui parlava l'unico programma circolante, era rappresentata da poche pianticelle entro vasi, un tappeto rustico di color verde e una caverna nello sfondo, la quale caverna era fatta con un cavalletto da finimenti che era il tetto e tre scrivanie che erano le pareti. Dentro c'era un fornelletto acceso con un paiolo nero sopra e una vecchia strega china a sorvegliare la diabolica cucina. Il palcoscenico era all'oscuro e il chiarore rossastro del fornello faceva un effetto magnifico, specialmente quando la vecchia alzava il coperchio e dal paiolo usciva il fumo vero. Un po' di scena muta per prolungare l'impressione e il brivido, poscia Ugo, il fellone, entrava a gran passi sbatacchiando rumorosamente l'arma incruenta con l'ampia tesa del cappello sugli occhi, la barba grigia, il vasto mantello e gli stivaloni. Ugo, molto agitato, passeggiava innanzi e indietro, si batteva la fronte e attaccava una fiera tirata, cantando il suo odio per Roderigo e il suo amore per Zara e la sua lodevole intenzione di ammazzare lui e conquistare lei. La voce grossa, in falsetto, un urlo ogni tanto quando l'odio, l'amore o l'ira traboccavano, l'impressione fu grande e il pubblico applaudì appena Joe si interruppe e prese un po' di fiato. Ringraziò con un inchino degno di un artista avvezzo ai trionfi, quindi si avvicinò discreto all'entrata della caverna e chiamò fuori la strega con voce imperiosa: «Olà, mia fida vassalla, ho duopo di te!» E veniva fuori Meg, in parrucca grigia, di crini pendenti sul volto, bordone da pellegrino, veste rossa e nera e un mantello ricoperto di segni cabalistici. Ugo le domandava un filtro che lo facesse adorare da Zara e un altro che facesse morire Roderigo. Agar intonava una bellissima aria promettendo i due filtri e cominciava ad evocare lo spirito che doveva aiutarla per il filtro d'amore. A me, dalla tua dimora, aereo spirto, vieni a me, nato dalle rose, nutrito di rugiade, non sai tu distillare filtri e magiche pozioni? Qui mi reca, veloce come il vento, il filtro fragrante che voglio e che sia dolce e pronto e potente. O spirito, rispondi! Risonava una dolce musica e nel fondo della caverna appariva una piccola figura bianca e nebulosa con le ali scintillanti, i capelli d'oro, una corona di rose in testa. Agitava uno scettro e cantava: Eccomi a te, dalla mia dimora aerea, lontana nell'argentea luna. Eccoti il filtro magico, usalo bene, se non vuoi che il suo potere in un istante vanisca. E lo spirito, gettata una fialetta dorata ai piedi della strega, si dileguava. A un'altra invocazione, altra apparizione. Non graziosa questa, un colpo secco, ed ecco in fondo alla grotta un folletto brutto e tenebroso, con una boccetta nera questa volta, che gettava ai piedi di Ugo e poi spariva con una risata di scherno. Ugo cantava i suoi ringraziamenti, si infilava le due boccette negli stivali, una per parte, e via. La fattucchiera allora informava il pubblico come e qualmente egli le aveva ucciso in passato parecchi amici, e perciò lei lo odiava e aveva deciso di mandare a vuoto i suoi piani e così vendicarsi. Si chiudeva il sipario e il pubblico si riposava discutendo la bellezza del lavoro con la bocca piena di frutta candite. Prima che si aprisse il sipario per il secondo atto, si udiva là dietro un gran martellare. Ma quando si vide il capolavoro di scenotecnica che ne era venuto fuori, nessuno brontolò più per il ritardo. Stupendo! Una torre si elevava fino al soffitto e a metà aveva una finestra illuminata da una lampada. Dietro la tendina bianca appariva Zara in un abito delizioso, turchino e argenteo. Ella aspettava Roderigo e Roderigo giungeva, bellissimo in tocco piumato, ricci castani, chitarra e naturalmente stivaloni. Inginocchiato ai piedi della torre, cantava con molto sentimento una serenata. Zara rispondeva e nel duetto si accordavano per fuggire insieme. E qui veniva la grande scena d'effetto. Roderigo tirava fuori una scaletta di corda a piuoli, cinque in tutto, gettava a Zara uno degli estremi ed esortava l'amata a discendere. Tutta tremante, ella usciva per la finestra e veniva giù. Già la sua mano posava sulla spalla dell'amato, già ella spiccava il salto per cadergli fra le braccia, ma aveva dimenticato, ahimè, lo strascico della veste che si era impigliata nella finestra. La torre vacillava, si inclinava avanti, precipitava con uno scroscio e seppelliva sotto le rovine i due sventurati amanti. Nella sala fu un urlo generale quando fra le macerie vennero fuori sgambettando due stivaloni. E accanto ad essi una testa bionda che esclamava: Ve l'avevo detto io, ve l'avevo detto! Ma con grande presenza di spirito, Don Pedro, il genitore spietato, accorreva a tirar fuori sua figlia dalle rovine e sottovoce rapidamente le comandava: Non ridere, continua come se tutto andasse bene! E ordinato a Roderigo di levarsi, lo bandiva dal reame con parole amare e disdegnose. Quantunque fosse tutto sottosopra per la torre cascatagli addosso, Roderigo si ribellava, rifiutando di muoversi. L'esempio dell'indomito amante trascinava anche Zara, anche lei si ribellava. E allora il genitore ordinava che fossero tratti nelle prigioni più profonde del castello. Entrava portando le catene un vassallo piccolo ma robusto che traeva via i due ribelli, ma che evidentemente aveva una gran paura e si era scordato tutte le parole della parte. Il terzo atto si svolgeva nel salone del castello. Entrava Agar, venuta a liberare i due amanti e ad uccidere Ugo. Lo udiva avvenire e si celava, lo vedeva versare le pozioni in due calici di vino e ordinare al piccolo vassallo, ancora spaventato, di portarli ai due prigionieri nelle celle rispettive e annunziar loro che egli ben tosto ci andrebbe. Il piccolo vassallo trattiene Ugo per dirgli qualche cosa e Agar ne approfitta per sostituire i due calici con altri due contenenti un liquido innocuo. Ferdinando, il vassallo, li porta via e Agar rimette sul tavolo uno dei calici, quello col veleno. Ugo, assetato, dopo una lunga cantata, lo beve, perde i sensi e dopo molto arraffare di maninari e pestare di piedi, cade e muore, mentre Agar gli canta un motivo bello e potente per informarlo di ciò che gli ha fatto. Questa scena riuscì proprio orripilante, sebbene a rigor di termini la caduta inaspettata della lunga parrucca guastasse un poco l'effetto della morte del fellone. Questi fu chiamato fuori a ricevere gli applausi, la mano in quella di Agar, il cui canto riscuoteva più ammirazione di tutto il resto dello spettacolo messo insieme. Nel quarto atto, Roderigo, disperato, sta per trafiggersi perché gli hanno detto che Zara lo ha abbandonato. Già si appunta al cuore il pugnale, quando sotto la finestra risuona una dolce canzone e lo informa che Zara gli è fedele, ma si trova in pericolo e che egli può salvarla se vuole. Dal basso gli viene gettata per la finestra una chiave per aprire la porta. Roderigo, in un'esplosione di gioia, spezza le catene e fugge a cercare e salvare la donna del suo cuore. Il quinto atto si inizia con una scena tempestosa fra Zara e Don Pedro. Egli vuol farla entrare in un convento, ma lei non ne vuole sapere. Dopo un'implorazione commovente, ella sta per svenire. In quel momento irrompe sulla scena Roderigo e domanda al padre la mano di lei. Don Pedro gliela rifiuta, perché Roderigo non è ricco. Ambedue urlano e si agitano furiosi, ma non riescono a mettersi d'accordo, e Roderigo sta per portar via la fanciulla che ormai viene meno. Ma in quel momento entra il solito piccolo vassallo, impappinandosi come al solito e recando una lettera e un sacchetto da parte di Agar, che è misteriosamente scomparsa. La lettera contiene la notizia che Agar lascia in eredità alla giovane coppia una fortuna immensa e minaccia a Don Pedro una fine orribile se non rende felici i due giovani. Il sacchetto viene aperto e una pioggia di monete di latta si rovescia sul palcoscenico, che ne diviene tutto luminoso. Questo fatto intenerisce il duro genitore, che dà immediatamente il consenso. Tutti e quattro gli attori cantano un coro di gioia e il sipario si chiude, mentre la giovane coppia si inginocchia per farsi benedire da Don Pedro in una posa piena di grazia commovente. Scoppiò un applauso clamoroso, che però cessò di botto perché il letto pieghevole che costituiva la fila dei palchi all'improvviso si chiuse e soffocò l'entusiasmo del pubblico. Roderigo e Don Pedro volarono in soccorso e tutti vennero tirati fuori illesi, ma non ne potevano più dal ridere. L'agitazione prodotta dall'incidente si era appena calmata quando apparve Anna, portando i complimenti della signora March e il suo invito alle signorine perché scendessero a terreno per la cena. Questa fu un'improvvisata anche per le attrici e quando videro la tavola si guardarono fra loro liete e sorprese. Che la mamma offrisse qualche cosa non le stupiva affatto, la conoscevano, ma un rinfresco come quello che apparve ai loro occhi era inaudito fin dai giorni lontani della ricchezza. C'era il gelato, bianco e rosa, due piatti interi, e la torta, e le frutta, e certi bonbon francesi da far perdere la testa, e nel mezzo della tavola quattro grossi mazzi di fiori di serra, e quattro attori erano a bocca aperta, senza fiato. Guardavano la tavola, guardavano la mamma che sembrava godersela un mondo. «Sono le fate?» domandò Amy. «È Santa Claus?» disse Beth. «È stata la mamma», disse Meg, col più dolce dei suoi sorrisi, sotto il barbone grigio e le sopracciglia bianche. «Alla zia le è venuto un accesso di bontà», esclamò Joe, con subita ispirazione. «Non avete indovinato nessuna. È il signor Lawrence», rispose la signora March. «Il nonno del piccolo Lawrence? Come gli è venuto in mente? Noi non lo conosciamo!» esclamò Meg. Anna ha raccontato a uno dei suoi servi la spedizione di questa mattina dalla povera Hummel. Il signor Lawrence è un vecchio un po' strano, ma la cosa gli è piaciuta. Quando il mio povero padre era vivo, molti anni fa, erano amici. Oggi nel pomeriggio mi ha mandato un biglietto gentilissimo. Gli permettevo di esprimere la sua benevolenza alle mie bambine, mandando loro qualche piccola cosa in questa giornata solenne. Non potevo rifiutare, e così questa sera avete un piccolo banchetto che vi compenserà del pane e latte che avete avuto per colazione stamattina. Oh, è stato il ragazzo a metterglielo in mente, lo so, è un tipo simpaticissimo e vorrei che facessimo la sua conoscenza. Mi pare che anche lui ne sarebbe contento, ma è timido e Meg è tanto meticolosa e non vuole che gli parli quando passiamo di là, disse Joe, mentre il gelato girava e rapidamente scompariva fra le esclamazioni di entusiasmo. «Volete dire quei due che abitano nella grande casa qui accanto, è vero?» domandò una delle giovani invitate. «Mia madre lo conosce, il vecchio Lawrence, ma dice che è molto orgoglioso e non gli piace di avere a che fare col prossimo. Il nipotino lo tiene rinchiuso quando non esce a passeggiare o a cavalcare col precettore, lo fa studiare molto. Una volta l'abbiamo invitato, ma non è venuto. La mamma dice che è carino, ma a noi ragazze non rivolge mai la parola». Una volta c'era fuggita la gatta e lui ce l'ha riportata. Abbiamo parlato un po' attraverso la siepe, un discorso molto interessante, tutto di cricket e altri giochi. Quando egli vide Meg che arrivava, andò via. Sarei contenta di conoscerlo un giorno o l'altro, perché ha bisogno di svagarsi un po', ne sono certa, disse Joe con convinzione. Ha delle belle maniere e ha l'aria proprio molto per bene. Non avrò difficoltà che facciate la sua conoscenza se capita un'occasione adatta. I fiori li ha portati lui e io lo avrei invitato se avessi saputo cosa stavate combinando di sopra. Se n'è andato a malincuore, si vedeva, udiva la vostra allegria rumorosa e di allegria a quanto pare lui non ne ha molta. Fortuna che non l'ha invitato, mamma, disse Joe, ridendo e guardandosi gli stivaloni. Ma noi faremo un'altra recita, meglio di questa, per poterlo invitare. Forse ci prenderà parte anche lui. Non sarebbe bello? Non mi hanno mai offerto un mazzo. Com'è bello questo! Esclamò Meg, rapita, esaminando i suoi fiori. Sono stupendi, è vero? Ma a me sono più care le rose di Beth, disse la signora March, avvicinandosi alle nari il fiore già un po' appassito che portava infilato alla cintura. Beth le gettò le braccia al collo, bisbigliando. Vorrei poterle mandare tutte al babbo. Temo che lui non lo farà un Natale allegro come questo.